Quindi questa mattina contemplavamo un po' il mistero di Dio creatore che ha creato tutto per amore. E noi vogliamo imparare a leggere nella creazione le caratteristiche di Dio, perché se l'opera delle sue mani parla dell'artista, ecco, insomma, è bello poter contemplare per arrivare a capire un po' di più il nostro Dio, a capire l'autore di tutte le cose. Voi pensate, per esempio, nella immensità dell'universo, noi possiamo senz'altro leggere in qualche modo l'immensità di Dio, la grandezza di Dio, la trascendenza di Dio, no? La potenza di Dio. E possiamo leggere anche l'immensità del suo amore. Quindi, ecco, questi, parlavamo degli astrofisici, no? Gli astrofisici che dicono delle cose incredibilmente grandi dell'universo, no? Queste galassie, milioni di galassie, una cosa veramente inimmaginabile quanto è grande tutto ciò che è creato, no? Quindi da un lato noi ci sentiamo piccolini, però dall'altra parte possiamo pensare quanto è grande Dio e se Dio è amore, quanto è grande il suo amore. Il suo amore è grande come tutta la Terra e come tutto l'universo e anche di più. E quindi la grandezza delle cose ci deve parlare della grandezza dell'amore. Se l'amore è così grande, veramente può cancellare il male. Il male è solo un'assenza, è una carenza, è una mancanza. Il male non ha una sostanza, dicono i filosofi, no? Metafisica. È solo mancanza di. Anche il peccato. Il peccato è una cosa brutta, no? È proprio, ci accorgiamo che perché è male e quindi fa star male, no? E fa male. Diceva Madre Teresa di Calcutta, il male è male perché fa male, il bene è bene perché fa bene. Quindi voi pensate all'oceano, no? La grandezza dell'oceano, che pure è piccolissima perché rispetto alle galassie infinite che ci sono. Allora, l'oceano ci può parlare dell'oceano dell'amore di Dio che è in grado di affogare nelle sue acque, qualunque, così, ecco, mancanza d'amore, no? La mancanza d'amore viene assolutamente travolta dall'oceano dell'amore. Pensate, quindi la creazione ci parla del creatore, no? È anche una, leggevamo dalla Laudato Si, e poi c'è un capitoletto che si intitola Il messaggio di ogni creatura nell'armonia di tutto il creato, no? Insistere nel dire che l'essere umano è immagine di Dio non dovrebbe farci dimenticare che ogni creatura ha una funzione e nessuna è superflua. Tutto l'universo materiale è un linguaggio dell'amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Quindi possiamo recepire per noi affetto per noi, qualunque cosa è creata, no? Che noi possiamo conoscere o contemplare, suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. La storia della propria amicizia con Dio si sviluppa sempre in uno spazio geografico che diventa un segno molto personale e ognuno di noi conserva nella memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene. Per esempio, i luoghi, cioè, dell'infanzia, i luoghi, i luoghi dell'amore, no? Dove abbiamo, per questo molto importante, a volte anche è importante una casa, no? La casa, perché è il luogo dell'amore, il luogo dove amiamo le persone, dove, o se abbiamo cambiato varie case, dove abbiamo amato le persone, tante persone, no? E le città dove abbiamo vissuto. Il cui ricordo gli fa tanto bene. Chi è cresciuto tra i monti, o chi da bambino sedeva accanto al ruscello per bere, o chi giocava in una piazza del suo quartiere, quando ritorna in quei luoghi si sente chiamato a recuperare la propria identità. E noi siamo stati creati come creature che vivono in un tempo, in una storia, e in una geografia, che è importante, non è. E la nostra identità, così come pensiamo alla nostra famiglia d'origine, no? Così importante. Abbiamo letto in questi Vangeli del Natale l'importanza della genealogia di Gesù. Gesù è dentro, non è disceso dal cielo per quanto noi lo cantiamo così, sì, è vero, è frutto dello Spirito Santo. In questo senso possiamo dire che è disceso dal cielo, ma viene da una genealogia terrena, che poi è scritta sia in modo diverso da San Luca e da San Matteo. Una genealogia, cioè, ha avuto dei nonni e questi avevano dei bisnonni e così via, no? E Betlemme, il luogo dove nasce, è pensato, dal profeta. È capito, è saputo da tutta l'eternità, quindi anche il luogo dove noi siamo nati, la famiglia nella quale siamo nati, la geografia nella quale siamo vissuti, è pensata, come sono importanti per te Gesù, Betlemme e poi l'Egitto e poi, no? E poi Gerusalemme, su cui tu piangi, piangi, eh? Pensando all'Egitto mi viene in mente che un seminarista, adesso non so, sarà, mi immagino, sacerdote dell'Uganda, e lui con un incontro per seminaristi che facevamo qualche anno fa, si presentavano, allora lui, dicendo che veniva da Uganda, e allora diceva che, metteva in evidenza che lì nasce il Nilo, nelle cui acque si è bagnato il figlio di Dio, per cui loro sono importanti, perché collegando le acque che nascono lì, le acque che ha bevuto, nelle quali si è lavato il bambino Gesù. È vero, com'è importante la geografia. E poi quelli del Libano sono consapevoli di essere terra santa, perché lì Gesù è passato, i suoi piedi hanno calpestato quella terra, Tiro e Sidone, terra santa. E quelli che vanno in terra santa, speriamo anche noi di andarci quanto prima, hanno questa percezione unica e anche in qualche modo poi la comunicano con la loro commozione, con la loro emozione, ma una percezione unica di stare dove Gesù è stato, no? Quindi vedere quello che lui ha visto, no? Dal Monte Tabor, il lago di Genezaret, dove lui pescava, Cafarnao, Nazaret. Gli entra dentro il Vangelo in un modo nuovo, in un modo diverso, ma perché è così? Questa è l'incarnazione. Gesù è venuto a far parte di noi e quindi ha vissuto una storia, non solo una. È una storia e una geografia. Una storia e una geografia. Per questo mi raccontava anche lì sempre, insomma, uno studente inglese che studiava con me a Roma, adesso è sacerdote in Inghilterra, che lì c'era una leggenda in Inghilterra che cosa avrebbe fatto Gesù nei 30 anni di vita nascosta. È andato in Inghilterra. Certo, cosa di niente di più facile, no? Perché c'è il desiderio, è che ogni legge, cioè, insomma, niente di più difficile in realtà, ma è difficile anche contestare questa leggenda, perché non abbiamo dati sulla vita nascosta di Gesù, cioè la vita dei 30 anni, però c'è questo desiderio cioè, di avere un rapporto con Gesù fisico, no? Qua, su questa terra, tu sei stato, hai mangiato le nostre specialità, no? E così via. E quindi, da quando tu, Gesù, sei diventato uomo appunto, hai mangiato e bevuto alla nostra tavola, no? E hai parlato la nostra lingua, l'aramaico, l'ebraico. Il latino, vi ricordate il film sulla Passione in cui Gesù parla anche latino? Il greco probabilmente, perché comunque era un'epoca in cui c'erano le varie lingue che conosciute allora, no? E quindi hai parlato la nostra lingua, hai parlato il nostro dialetto, hai mangiato le nostre specialità, insomma sei veramente uno di noi. E sei diventato creatura, allora tutte le creature ci parlano di te. E tu stesso nel Vangelo ci parli delle creature che tu hai conosciuto, che hai ammirato, anche i campi, appunto, il tramonto, i monti su cui sali, e gli uccelli del cielo, no? E ogni creatura ci parla di te. Dio ha scritto un libro stupendo, scrive il Papa, punto 85 della Laudato Si', le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti nell'universo. Giovanni Paolo II. Queste le lettere del libro bellissimo che ha scritto. E poi cita vari episcopati che hanno detto cose belle, vescovi del Canada che dicono che nessuna creatura resta fuori da questa manifestazione di Dio, dai più ampi panorami alle più esili forme di vita. La natura è una continua sorgente di meraviglia e di reverenza, ed è rivelazione continua del divino, rivelazione continua del divino. Noi che abbiamo questa vocazione di essere contemplativi in mezzo al mondo, dobbiamo imparare a guardare, no? Impariamo a guardare le opere dell'amore umano, stavo dicendo assieme, sì, così, le opere dell'arte, della poetica, della musica. E ci possiamo appassionare a tutte queste cose, no? Alle opere dell'ingegno umano, e anche noi le facciamo, siamo artisti, creatori di bellezza. Con il vostro canto, con la vostra fantasia, con i vostri teatri letti, e con la vostra pittura, con la vostra scultura, eccetera, no? Però, prima ancora ammiriamo appunto le creature nel loro essere creato che sono una rivelazione continua del divino, come, ecco, no? Se uno di voi scrive un libro, poi chi lo legge dice, riconosco, ti riconosco, no? Come autore, cioè l'opera dice qualcosa di chi l'ha fatta, no? E così la creazione ci parla di Dio, e così ciascuno di voi parla di Dio con il suo essere, no? I vescovi del Giappone da parte loro hanno detto qualcosa di molto suggestivo. Percepire ogni creatura che canta l'inno della sua esistenza e vivere con gioia nell'amore di Dio e nella speranza. Questa contemplazione del creato ci permette di scoprire attraverso ogni cosa qualche insegnamento che Dio ci vuole comunicare, perché per il credente contemplare il creato è anche ascoltare un messaggio, udire una voce paradossale e silenziosa. Il Papa che scrive queste cose, in realtà a lui piace fare le ferie in casa sua a leggere libri, eh? Però il Papa Giovanni Paolo II, che lui spesso cita, invece gli piaceva proprio andare in montagna e pregare contemplando la creazione così più da vicino, no? Per questo voglio dire, ci sono attitudini diverse a seconda dell'indole e dei gusti, ma tutti possiamo coltivare questa capacità di contemplazione delle realtà create, cioè di Dio attraverso ciò che Lui ha fatto, no? Possiamo dire che accanto alla rivelazione propriamente detta, contenuta nelle Sacre Scritture, c'è quindi una manifestazione divina nello sfolgorare del sole, nel calare della notte. Questo è catechesi sempre di Giovanni Paolo II. Prestando attenzione a questa manifestazione, l'essere umano impara a riconoscere se stesso in relazione alle altre creature. Io mi esprimo esprimendo il mondo, io esploro la mia sacralità decifrando quella del mondo. Questa è una citazione di Paul Ricoeur, Filosofie de la volonté. L'insieme dell'universo con le sue molteplici relazioni mostra al meglio la ricchezza inesauribile di Dio. Infatti, questa varietà sorprendente di creature, anche la varietà della creatura umana. Veramente noi crediamo, e poi ci viene anche detto dalla scienza, che non c'è una persona uguale all'altra, no? Per cui anche il DNA può essere, diciamo, in qualche modo, insomma, studiato anche di persone vissute molti anni fa, no? Non c'è nessuno, c'è una. La nostra voce è veramente unica. Anche nel corpo, no? Il DNA, le impronte digitali sono veramente uniche e quindi Dio ha una capacità continua di novità, non si ripete mai. Non si ripete mai nel crearci, non si ripete mai, come ci insegnava nostro Padre, nel santificarci, nel portarci avanti. Lo Spirito Santo è così nuovo, sempre così, così fantasioso, quindi che ci sono cammini diversi per identificarci con Cristo. Anzi, ciascuno di noi ha il suo cammino, ha il suo cammino unico. Quindi non dobbiamo essere uguali, non dobbiamo essere uguali. Poi certo, un minimo, ovviamente, soprattutto se viviamo, come facciamo, quindi in famiglia, se siamo tanti, dobbiamo avere un orario, dobbiamo avere per motivi di ordine e ovviamente di organizzazione del lavoro, no? Però per sé è bene che siamo diversi, ci insegnava nostro padre, no? La Pentecoste, ecco, mille lingue diverse, cammini diversi, anche all'interno della grande autostrada che lui così faceva questa immagine, no? La nostra casa, la nostra famiglia, ecco lo spirito dell'Opus Dei che il Signore ha dato a ciascuno di noi. Abbiamo quindi un unico, come dire, una somiglianza spirituale. Ovviamente facciamo parte di una famiglia spirituale all'interno della Chiesa, quindi abbiamo una somiglianza, abbiamo dei tratti comuni anche importanti. E lui faceva l'esempio dell'autostrada, però all'interno di questa strada grande, ciascuno la percorre con il suo cammino. Vi ricordate che lo diceva Don Ugo de Acevedo, lo scrive in uno dei suoi libri, racconta questo aneddoto che a me raccontò anche prima, di lui che lo accompagnava in una visita di preghiera al santuario di Fatima e poi, siccome sapeva che era lì in esposizione, in mostra, proprio vicino in uno di questi padiglioni che sono vicino al santuario, la Madonna di Kazan, la Madonna tanto venerata dai russi, è scappata da Mosca insomma, dalla Russia nella rivoluzione di ottobre, poi è vagata in vari posti in Occidente, e fra l'altro alla fine è arrivata da Giovanni Paolo II, che l'ha custodita nella sua stanza per diversi anni, sperando di poter essere lui a riportarla a Mosca, no? In Russia, e di poterla riconsegnare, però non gli hanno dato l'ok, no? Il visto per poter andare in visita pastorale in Russia, è uno dei suoi crucci, e allora ha mandato Cardinal Casper e gliel'ha restituita dopo alcuni anni. È una Madonna molto amata dal popolo russo. Qualche volta mi hanno fatto l'esempio come la Madonna di Guadalupe per i messicani, no? Un'icona particolarmente importante. E allora questo sacerdote portoghese ha pensato: se il fondatore del Musei prega davanti a questa immagine, quando fra qualche anno, quando Dio vorrà, ci saranno persone dell'Opus Dei in Russia, si gli farà piacere sapere che c'era stata questa preghiera, no? E allora lo invita: padre, se vuole, qui c'è la Madonna di Kazan, potremmo andare a visitarla. E invece San José Maria, io mi immagino per quella, a volte quei propositi che faceva di sobrietà, di non fare turismo, qualcosa del genere, forse non è riuscito a spiegargli quello che aveva in mente, no? Perché se io penso che se fosse riuscito a spiegarglielo bene avrebbe detto di sì. E allora gli ha detto: no, io non vado, però tu vai perché tu hai il tuo cammino e io ho il mio. Io ho il mio cammino, tu hai il tuo. Cioè abbiamo cammini spirituali diversi all'interno della stessa famiglia, questa diversità delle creature, no? Ci spiega questa diversità di cammini, no? E l'insieme, ecco, dell'universo ci spiega la ricchezza inesauribile di Dio. San Tommaso d'Aquino ha sottolineato sapientemente che la molteplicità e la varietà provengono dall'intenzione del primo agente, il quale ha voluto che ciò che manca a ciascuna cosa per rappresentare la bontà divina sia supplito dalle altre cose, perché la sua bontà non può essere adeguatamente rappresentata da una sola creatura. Per questo abbiamo bisogno di cogliere la varietà delle cose nelle loro molteplici relazioni. Dunque si capisce meglio l'importanza e il significato di qualsiasi creatura se la si contempla nell'insieme del piano di Dio. Questo insegna il Catechismo: l'interdipendenza delle creature è voluta da Dio. Il sole e la luna, il cedro e il piccolo fiore, l'aquila e il passero. Le innumerevoli diversità e diseguaglianze stanno a significare che nessuna creatura basta a se stessa, che esse esistono solo in dipendenza le une dalle altre per completarsi vicendevolmente al servizio le une delle altre. E questo poi il Catechismo spiega e lo applica anche proprio agli esseri umani, anche dice a Santa Caterina da Siena: io non ho, dice Dio, non ho distribuito i doni uguali a tutti, anzi a qualcuno do di più la fede, a qualcun altro la speranza, la carità, ma perché? Perché così vi potete aiutare. Così come noi abbiamo bisogno del frumento, della frutta, no? E della vite e del frutto della vite, che poi l'uomo trasforma con grandissima sapienza. Abbiamo bisogno di tutte le creature del cielo e della terra, non possiamo fare a meno. Abbiamo bisogno del sole di giorno e della luna di notte per essere un po' lunatici. E se ci fosse sempre sole, si impazzisce, no? Oppure sempre notte, depressione pazzesca, no? Come succede ad alcuni di quelli che abitano su molto al nord, no? Quando hanno questo buio continuo è un problema. Così tra di noi abbiamo bisogno della nostra diversità per aiutarci. Questa è una volontà di Dio molto chiara che noi contempliamo nella creazione. Non vuole che uno di noi abbia tutto. No, siamo creature, no? Tutto abbiamo ricevuto. La vita ce l'ho perché tu me la dai, Signore, noi. La salute perché tu me la dai, se me la dai. E così via, no? I doni dell'intelligenza, se me li dai, se riesco a coltivarli, perché mi hai dato del tempo, perché mi hai dato delle possibilità, perché mi hai dato una famiglia, perché mi hai dato una scuola. Recentemente da una persona che sta in un'altra nazione europea ho sentito l'elogio della nostra scuola, no? Perché noi tendiamo a non valutarci, invece qui alla fine, nonostante tutte le magagne, riusciamo insomma, a studiare, a imparare tante cose. Quindi abbiamo questi doni anche, ecco, ma come faremo da soli, senza professori, senza maestri, senza genitori, senza fratelli, senza sorelle, senza una società? E noi per questo dobbiamo essere grati. Certo, a volte leggiamo, le drammatiche vicende delle guerre del passato, no? Però c'è gente che ha dato la vita perché noi potessimo vivere in pace, no? Dobbiamo essere molto grati alle persone che hanno dato la vita per difendere la patria, per salvare, no? I nostri confini e così via, per liberarci, no? Da situazioni oppressive. Anche quindi lungo la storia siamo dipendenti dagli altri. Se c'è una cosa che tu, Signore, vuoi è che non siamo da soli, che non facciamo da soli. Riconosciamo di avere bisogno degli altri e tu, Signore, vuoi che ci sia questo bisogno perché, non solo perché ci completiamo vicendevolmente, ma perché ci vogliamo bene. E questo può essere un modo di interpretare tutti i problemi che abbiamo. Come si risolvono, Signore? Cioè, perché tu permetti continuamente che abbiamo problemi? Questa è un'altra cosa che è una costante, no? Ci sono sempre problemi nella vita, eh? Sempre difficoltà, eh? Sempre difficoltà. E poi fin dall'inizio, perché il peccato originale è avvenuto all'inizio, quindi il paradiso terrestre è durato pochino, pochino, no? E poi anche lì c'è stato un problema, che è stato il peccato originale, quindi alla fine anche lì il serpente che girava liberamente, non l'avevano messo in un recinto, in una gabbia allo zoo. Quindi tu, Signore, permetti che, ecco, vuoi che ci sia questa varietà, vuoi che però nessuno, che tutti abbiamo bisogno di tutti e permetti che ci siano sempre problemi perché noi torniamo a te che sei il nostro unico Dio, nessuna creatura è il nostro Dio, no? Quindi, in fondo, la limitatezza delle creature fa in modo che noi possiamo sconfiggere l'idolatria che è sempre dietro l'angolo, no? La tentazione dell'idolatria. L'idolatria per una creatura, magari il cagnolino, il gattino, no? A cui ci affezioniamo tanto, e poi dopo, paf, improvvisamente muore. Poi su questo c'è una storia, ma non c'è tempo di raccontarla, mi è venuta la storia del gattino morto, la racconto? Che un sacerdote dell'opera è andato a fare un corso negli Stati Uniti e so, i dettagli non me li ricordo perfettamente, però insomma, una volta aveva visto in un documentario un personaggio famoso lì di quella. Non so se era uno sportivo famoso, forse sì, uno sportivo famoso che poi è diventato grande e raccontava in una trasmissione televisiva la sua conversione. E allora lui ha voluto. No, poi questo signore è morto e la conversione era legata a una storia che relativa a sua figlia, la figlia che era affezionatissima appunto a un gattino o a un cagnolino, non mi ricordo comunque. Che poi un giorno questa bimba, questa ragazza già, insomma, non era più una bambina, comunque va a scuola e purtroppo il gattino esce di casa e viene spiaccicato da un passante con l'auto. Il dramma suo è, dice, questa bambina mi ci muore attorno a questo lutto, no? E allora cosa ha fatto? Lui si è ricordato di Dio, è andato a pregare in una chiesa. E ha chiesto: Signore, se tu esisti, aiutami perché questa figlia è così affezionata a questo insomma, mi pare su un gattino, che veramente io era preoccupatissimo, lui con sua moglie. E questa figlia torna da scuola e il gattino non c'è, ovviamente è morto, neanche chiede dov'è, cioè. È come se si fosse dimenticata totalmente dell'esistenza di questa creatura a cui era così affezionata. E così per molti anni. Lui è così colpito da questo miracolo che evidentemente lui si converte. E allora, questo sacerdote in qualche modo riesce a contattare questa persona che effettivamente gli. E tra le lacrime di commozione svela, e questa donna ormai fatta e finita, che dice: è proprio vero, è successo proprio così, è successo proprio così. E quindi anche lei poi è arrivata così alla fede. Però per dirvi che, adesso quindi il dettaglio, il racconto è un po' insomma, sintetizzato, questo sacerdote lo racconta in modo più dettagliato. E però per dire che appunto la tentazione di mettere tutto il nostro affetto in una creatura viene vinta nella limitazione della creatura che poi muore, che poi insomma passa, che poi ha i suoi limiti. E allora noi dobbiamo cogliere tutte queste limitazioni come un invito di Dio, che è il nostro vero amore, che è il nostro grande amore, che è colui da cui noi veniamo e verso cui andiamo, per dire questo, noi dobbiamo mettere il nostro cuore in te, ma non per toglierlo dalle creature, perché il Signore vuole che amiamo le creature e vuole che ci amiamo tra di noi, solo che questo amore deve portarci a Lui, no? E deve manifestare Lui e deve nascere da Lui e a Lui arrivare, no? Questo amore che Lui desidera che abbiamo gli uni per gli altri, questa collaborazione, questa comunione gli uni con gli altri, che deve manifestare la comunione che c'è nella Trinità. La varietà infinita delle creature e la loro interdipendenza ci parla di te, Signore. E allora noi chiediamo alla Madonna e a San Giuseppe che hanno saputo accogliere i doni dei pastori, no? Le caciotte, no? Gli agnellini, non so, le cose che li hanno aiutati a sopravvivere in quei giorni e nella fuga in Egitto. Che ci aiuti ad amare il creato e a trovare Dio presente in ogni cosa per mettere in Lui per sempre in modo stabile il nostro cuore.